a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Seconda puntata a Regola d'Arte, bentrovati da Francesco Galante e vado subito a dirvi qual è l'argomento di oggi. Oggi parliamo di credito e finanza, con noi c'è Paolo Bettella, presidente della funzione aziendale credito e finanza dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Parliamo di credito e finanza perché? Perché ci sono anche degli incontri, un ciclo di incontri per discutere sul delicato tema del credito alle imprese. Questi incontri saranno mercoledì 8 giugno alle 19 a Monselice, nella sede dell'Unione Provinciale Artigiani in via Rovigana. Poi mercoledì 15 giugno alle 19 a Padova, nella sede UPA di Piazza De Gasperi, e mercoledì 21 settembre, quindi dopo l'estate, diciamo, alle 19 nella sede UPA di Campodarsego in piazzetta Don Pianaro 2. Questi sono tre incontri proprio per parlare del tema del credito alle imprese. Sì, mi auguro di avere in quelle serate molti colleghi artigiani che partecipano a questi eventi, perché sono eventi importanti dove diamo un po' anche le indicazioni su tutto ciò che sta cambiando a livello normativo per quanto riguarda anche le banche locali, le popolari, le BCC, eccetera. Quindi c'è anche un momento per spiegare ai nostri colleghi artigiani termini tipo bail-in, che alla fine vuol dire che fare attenzione a scegliere il proprio partner bancario, perché si può rischiare, in caso di problemi della banca, di default eccetera, di dover intervenire anche col proprio capitale messo nel conto corrente solo per certe cifre eccetera. Ci sono delle cose che sono cambiate nella normativa per quanto riguardano tutte le banche, ed è bene che i nostri colleghi artigiani abbiano conoscenza di questa tematica. Per il resto la serata parte dal problema della lunga crisi economica che sta ancora mettendo a dura prova il rapporto tra le piccole imprese e le banche. Alcuni istituti sono in difficoltà, come abbiamo detto prima, contributi ed incentivi pubblici a fondo perduto sono sempre più ridotti ed anche l'iniezione della liquidità da parte della Banca Centrale Europea non sta dando i risultati aspettati. Oggi l'accesso al credito rappresenta una delle principali difficoltà delle piccole imprese, mentre di contro sui quotidiani leggiamo del continuo aumento dei depositi, come a dire che i soldi ci sono, alcune banche hanno i soldi ci sono, ma non vengono impegnati nell'economia reale. Ecco quindi che proprio per questo motivo l'Unione Provinciale Artigiani di Padova è impegnata nell'affiancare le imprese e gli imprenditori per favorire l'accesso al credito mediante strumenti tradizionali ed innovativi, proprio per aiutare concretamente le aziende, innanzitutto a scegliere il giusto partner bancario che aiuti poi l'azienda a crescere e a competere. Oggi la priorità delle aziende artigiane è avere la possibilità di guardare avanti con coraggio e speranza, diventando protagoniste della ripresa dell'economia. È importante che noi diamo all'impresa artigiana una prospettiva. Dando una prospettiva riusciamo a rimettere anche in moto quel vigore artigiano nell'impegnarsi nelle aziende e nel mettere in discussione il proprio lavoro, il proprio talento, il proprio rischiare qualcosa, ritornare ad avere un rapporto con la banca, perché della banca noi comunque abbiamo bisogno. Non si può fare impresa in Italia senza le banche. Pensate solo alla limitazione del movimento di denaro contanto fino ai 3.000 euro. È chiaro che un artigiano che deve fare impresa ha assolutamente bisogno del rapporto con le banche. Certo, di solito appunto quando uno aveva bisogno di credito andava in banca, la banca, come dire, spulciava tutti i conti dell'impresa e poi decideva se dare o no il credito. Adesso c'è anche questo quest'altro rapporto che è invertito, cioè dovrebbe essere proprio chi va in banca a spulciare i conti della banca per capire se questa è in buono stato, no? E in questo potrebbe essere proprio utile l'Unione Provinciale Artigiani, come diceva lei. Certo. Consideriamo che noi artigiani abbiamo un rapporto duplice con la banca. Da una parte la banca come impresa ci fornisce la materia prima denaro, quindi noi abbiamo bisogno del credito della banca. D'altra parte, come persone fisiche, nelle banche vanno a finire magari i nostri risparmi, e abbiamo visto cosa è successo attualmente dei nostri risparmi. Quindi il rapporto fiduciario tra l'imprenditore e la banca mai più di questo momento va valutato nel duplice rapporto, anche come proprio risparmiatore che deposita i propri risparmi nella banca, specie la banca locale, che ha visto crescere, che l'imprenditore artigiano ha visto crescere negli anni come la sua azienda. E comunque, ecco, proprio l'Unione Artigiani vuole fare la sua parte fino in fondo per costruire un futuro insieme alle imprese e rilanciare il nostro territorio, oggetto in questo periodo di molte critiche da parte di chi vorrebbe porre la parola fine al modello di sviluppo veneto, mentre noi, insomma, questo modello di sviluppo veneto è quello che ci ha fatto crescere, ci crediamo e vogliamo continuare, magari con un rapporto nuovo nei confronti delle banche, questo sì, sicuramente. Chiarezza, più trasparenza e codice etico da parte delle banche sono indispensabili per riconquistare anche la banca quel rapporto fiduciario nei confronti dell'artigiano. Allora ricordo, mercoledì 8 giugno a Monselice, nella sede dell'UPA in via Rovigana alle 19, poi ancora mercoledì 15 giugno, questa volta nella sede di Padova, di Piazza De Gasperi. Ci sono questi due primi incontri dedicati al futuro e all'impresa e sul tema del credito, ovviamente per partecipare è bene prenotarsi presso l'UPA. Certo, comunque la partecipazione è libera, basta venire, tutti saranno bene accetti, artigiani iscritti e anche artigiani non iscritti, perché immagino che avremo alcuni ascoltatori che non sono attualmente iscritti alla nostra associazione. Venite, le porte sono aperte a tutti, proprio per apprendere che cosa può fare un'associazione per i propri associati. Ascoltiamo un brano e torniamo tra poco. I need to learn. I feel like we are the only ones alive. I feel like we are the only ones alive. So hold on, hold on, hold on, hold on. You know there ain't a lot of time, but I know that we I feel like we A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Stiamo parlando di credito e finanza con Paolo Bettella, presidente della funzione aziendale credito e finanza dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Torniamo allora a parlare delle attività che l'UPA fa per seguire gli associati. Noi, per quanto riguarda il credito, accompagniamo le aziende nel rapporto, come si diceva prima, nel rapporto con il partner bancario, nella scelta a volte del partner bancario giusto. Assistiamo l'imprenditore per ottenere garanzie più qualificate, forniamo un'efficace consulenza alle imprese, andiamo anche in azienda, abbiamo dei promotori, 4-5 figure che nel territorio girano e vanno personalmente presso le aziende. Analizziamo i bisogni di ogni singola azienda per realizzare un piano di azione personalizzato e questi sono principalmente le operazioni di accompagnamento che fa l'Unione Provinciale. Lo fa attraverso alcuni strumenti, per esempio per le garanzie eccetera, abbiamo un consorzio fidi. Qui è importante capire che il consorzio fidi a cui fa riferimento l'associazione, cioè il consorzio fidi sviluppo artigiano, è un consorzio fidi vigilato da Banca d'Italia. Cosa significa vigilato? Significa che questo consorzio fidi deve sottostare alle stesse regole e regolamenti e controlli che hanno le banche, perché anche in questi consorzi fidi Banca d'Italia ogni tanto va a fare dei controlli. Questo dà una garanzia e una etichetta a questo consorzio fidi, per cui le banche valutano in maniera molto più efficace ed importante la garanzia che l'artigiano presenta se è una garanzia di un consorzio fidi vigilato. Sul territorio nostro qui di Padova non tutti i consorzi fidi sono vigilati, quindi anche qui l'associazione mette a disposizione proprio il meglio che si può trovare come consorzio fidi, proprio per poter accedere alla garanzia più qualificata per i propri artigiani. Ultimamente avete pensato all'apertura di un nuovo sportello. L'ultima nata tra le attività è questo, è lo sportello per la finanza agevolata, in collaborazione con la società ABC Finanziaria. Grazie a questo sportello possiamo garantire un servizio di sviluppo operativo completo, finalizzato all'accesso di contributi nazionali e regionali agevolati, sia in conto capitale che in conto esercizio ed in conto interessi. Questo è uno strumento strategico per tutte quelle opportunità che il territorio e le istituzioni mettono a disposizione alle imprese e che gli imprenditori possono cogliere per migliorare la propria competitività. Quindi ci sono dei contributi ai quali qualcuno può accedere, ma bisogna sapere anche come fare per entrarne in possesso. Certo, certo, ultimamente la prima che mi viene in mente, che è anche quella, l'operazione che presentiamo durante le serate, è la nuova Sabatini. È un'opportunità molto importante, chi verrà a partecipare la sera avrà proprio anche i dettagli da parte dei tecnici che spiegano come funziona e per cosa è possibile agevolare, ma anticipo già che è uno strumento molto molto molto valido. A cui anch'io sto proprio vedendo di partecipare, perché ci sono delle possibilità valide. Chiediamo aiuto all'UPA perché delle opportunità, insomma, non vadano perse. Certo, certo. Consideriamo che l'UPA è fatta anche da artigiani. Artigiani che come me si impegnano e cercano poi tutto ciò che di meglio c'è per l'azienda, per la propria azienda, per le aziende artigiane, e quindi poi attivano attraverso l'associazione quelle convenzioni proprio per poter spalmare sulle nostre aziende il meglio che si trova. Quindi massima fiducia nell'associazione, perché è sempre alla ricerca di dare il meglio. Poi a volte non è così scontato passare dalla volontà a realizzare il meglio dei servizi, però ci proviamo, insomma, siamo qua e ci proviamo, e sono convinto che chi viene a provare i nostri servizi vedrà, quanto minimo, se non il risultato, la buona volontà che ci mettiamo. Grazie a Paolo Bettella, presidente della funzione aziendale Credito e Finanza dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ed ora i principali appuntamenti della prossima settimana. Il 31 maggio a Padova, nella sede di UPA, in piazza De Gasperi 22, si terrà l'ultimo appuntamento del ciclo Come muoversi nel complicato mondo delle pensioni. L'Unione Artigiani presenterà il nuovo sportello Previdenza Complementare. L'iniziativa è promossa dal gruppo Giovani Imprenditori di UPA e da Confartigianato Donne Impresa, in collaborazione con lo sportello INAPA e Solidarietà Veneto. Domenica 5 giugno, per tutta la giornata, si terrà a Carmignano di Brenta la giornata dell'autotrasportatore, un appuntamento organizzato da UPA, CNA e Casa Artigiani, grazie al contributo di EBAV. Per avere maggiori informazioni basta collegarsi al sito dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova all'indirizzo www.upa.padova.it oppure ai profili social di UPA su Facebook, Twitter e YouTube. E anche per oggi è veramente tutto. Grazie per l'ascolto da Francesco Galante e a risentirci alla prossima settimana. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.